avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir. Mi fanno notare che oggi sia un giorno palindromo. 11.02.2011, da qualunque parte lo prendete sono sempre gli stessi numeri. Esiste una chiave fantastica e meravigliosa nelle date palindrome, soprattutto se cadono di venerdì, ma non voglio entrare nel profondo significato sottile di questa mattina. Posso solo dirvi, come sa benissimo chi mi segue da tempo, che oggi avevo annunciato una trasmissione dedicata alla giornata di protesta delle donne che appunto scoccherà la mattina di domenica, quindi fra due giorni. Io di solito mantengo sempre le promesse, ma questa volta lo faccio parzialmente da un punto di vista e totalmente da un altro punto di vista. Avevamo promesso che oggi Melog sarebbe stato dedicato alla riflessione sulle donne. Abbiamo riflettuto una settimana su chi chiamare per riflettere. Alla fine abbiamo deciso di non coinvolgere riflessive o riflessivi professionisti. Faremo tutto da soli, con le sole donne che vorranno chiamare all'800 24 00 24, non per presunzione, ma solo perché sulla giornata di domenica, in cui le donne scenderanno in piazza, non è più possibile trovare qualcuno che non dica cose già dette. Hanno parlato le donne assennate, che protestano contro il modello di donne ipersessuate. Hanno parlato le donne che praticano la dazione strategica per rivendicare il diritto di darla a chiunque loro piaccia e per qualunque vantaggio loro interessi perseguire. Hanno parlato le moralizzatrici tardive e le libertine precoci. Hanno parlato le sagge e le futili, le bruttone e le fatalone, le liberate e le felicemente oppresse, le normali e le eterodosse. Le colte, le profonde, le sagge si sono incrociate con le stolte, le esagitate, le ipocrite, le sventate. Hanno parlato le mamme, le nonne, le zie, le figlie di mamma, le nipotine e le suocere. Hanno parlato le vergini dai candidi manti e le trucide amanti. Hanno detto la loro contesse, sacerdotesse, madri badesse, caporalesse e fighelesse. Chi tra le ascoltatrici non si senta rappresentata da queste categorie che io rozzamente ho elencato nella giornata di ieri, non sapendo come arrampicarmi sugli specchi, in carenza totale, in vuoto pneumatico, di ospiti da chiamare in questa trasmissione. All'inizio, ricordate, avrei chiamato l'autrice del libro sul manuale delle giovani mignotte, contrapponendola con un'altra donna che rappresentasse un altro versante della femminilità, meno reattivo, meno incondizionatamente sprocedato nel uso estremo del proprio corpo. Beh, ho cercato, visto, trovato, ma via le persone che cercavo e contattavo, che mi contattavano, non mi davano soddisfazione. Poi le vedevo continuamente, era una sorta di agenda. Tutte le donne che parlano di donne questi giorni sono chiamati da altre donne a parlare in programmi di donne che parlano di donne. C'è questa grande attesa, questa sorta di preorgasmatico e lancinante esercizio prima di domenica. Quindi cosa devo fare io, me meschino? Fare quello che fanno gli altri, quello che è stato fatto fino a ieri sera, notte tarda, nei grandi talk televisivi in cui si parlava delle donne, delle controdonne, delle donne che non parlano delle donne, via dicendo. Questa mattina saranno piene di donne che parlano delle donne, di donne sicure, di donne tronfie, di donne che per professione parlano di donne. Beh, io questa mattina voglio far parlare le donne che mi ascoltano alla radio. Poco che siano nel grande peso dell'opinione nazionale, comunque avranno anche loro qualcosa da dire, avranno anche loro un'idea su cosa significhi essere donna. Ho detto che esiste il faticoso mestiere di essere donne. Qualcuno mi ha contestato ieri, perché io faccio una sorta di preludio della trasmissione su Facebook. Mi ha detto, ma fare la donna non è un mestiere. Può essere, ditemelo, spiegatemelo perché non è un mestiere. Perché fare l'uomo, guardate che è un mestiere. È un mestiere che io ho cominciato a imparare dopo i 50 anni. Prima ero soltanto un apprendista e ancora mi sento semplicemente ai primi gradi della professionalità dell'essere maschio. È difficilissimo. Ogni mattina mi sveglio, come mannaggia, oggi devo fare l'uomo e via dicendo. E questo è un grande peso. È una grande soddisfazione, ma allo stesso punto di vista è un grande onere. Non è un mestiere fare la donna. cos'è fare la donna? Qual è il problema delle donne? Se dovesse una donna rappresentare se stessa, unicamente se stessa, nessuna categoria, non parlate per le donne. Nessuno vi ha dato mandato, nessuna donna ha dato mandato a altre donne di parlare delle donne, a meno che non appartengano a delle associazioni politiche, a dei sindacati, a delle organizzazioni. Allora sì, ti do mandato, parla a nome mio. Ma in generale nessuna donna può parlare a nome delle donne, come nessun uomo può parlare a nome degli uomini. Chi è il rappresentante degli uomini? E quindi questa mattina la trasmissione la farò soltanto con le donne che mi ascoltano. Le donne in queste ultime settimane si sono indignate, arrabbiate, sventrate e giudicate. Le donne dei salotti già affilano le unghie, le donne della piazza arrotano le lingue. Le donne dei giornali, telegiornali e matronali già si armano di penne acuminate, di bandane colorate, di zoccoli, di botulino, di semolino e di broccoli. Le donne già sono divise in due fronti opposti, pronte a farsi guerra tra quelle che scenderanno in piazza a manifestare e quelle che resteranno dietro alle persiane a mormorare. Le donne già sono segnate tra brave donne e cattive donne, tra donne dalla parte delle donne e donne che fanno il gioco delle donne che tradiscono il loro essere donne. In tutto questo, capirete che c'è stato difficile scegliere tra le donne senza far torto ad altre donne. Abbiamo quindi deciso di non invitare donne, ma di far parlare donne, purché non parlino a nome di altre donne, ma solo del loro privato, personale e unico mestiere quotidiano, di fare le donne. Paola, buongiorno. Prima donna che parla di lei come donna. Buongiorno Nicoletti. No, non è una professione o un mestiere particolare. No, me lo spieghi, non lo so. Guardi, non esiste un uomo che sappia nulla delle donne. Succede che si viene al mondo con questo tipo di corpo e questo tipo di corpo è fatto per mettere al mondo il mondo. E quando uno se ne accorge di questo? Si accorge di questo quando... In effetti è vero. Però noi ce ne accorgiamo, c'è quel pistolino che ci trastulliamo da quando siamo nati, quindi è il nostro scettro. Noi ci accorgiamo di questo quando che siamo diverse, che questo corpo nostro è diverso, ce ne accorgiamo quando diventa oggetto di attenzione da parte di quelli col pistolino. Ah, ecco, quando si sente desiderato. Perché non puoi camminare per la strada e leccare un gelato, te ne accorgi perché sull'autobus te lo infilano dappertutto e te ne accorgi. Beh, adesso non esageriamo. Andrà vestita nell'autobus? Sì Gianluca, però io mi sono trovata seduta su un autobus con una giacca di lana con un collo di pelliccia nero e stavo leggendo un libro. L'autobus era affollato, mi sentivo anche un po' in colpa di stare lì seduta mentre tutti erano spiaccicati e quindi stavo tutta spiacciata verso il finestrino dell'autobus e leggevo. A un certo punto mi è caduto il libro, mi sono chinata e chinandomi si è scoperto il pisello che mi avevano infilato sotto al collo di pelliccia. Sì, quello è il tipico maniaco di autobus. Beh, sono uomini schifosi. Però sono quelli. tanti, caro, sono tanti. Sono malati, lo so, poveracci. Allora lì ti accorgi che c'hai un corpo diverso, che questa ragione, cosa però. È un po' diversa. A me non è mai capitato una donna che mi mettesse le mani addosso sull'autobus, quindi capisco, questo è il primo punto di differenza. È il primo punto, poi te ne accorgi quando li metti al mondo. Lì proprio ti accorgi di questo essere donna. Te ne accorgi perché non sai chi arriverà, non sai come diventerà e sai... Da una parte che sei costretta, ma da una parte che non puoi farne a meno, perché che li ami comunque. Che li ami comunque anche se metti al mondo delle brave persone, anche se metti al mondo dei mostri, anche se metti al mondo. Lì poi... Certo, è strano, dovrebbe essere una sensazione strana, essere la fabbrica di un essere umano, perché noi figli ce li abbiamo, li riconosciamo, tocchiamo, sentiamo che fa parte della nostra carne, ma averceli dentro per tanto tempo e poi farseli tirare fuori, penso qualcosa di diverso. Non solo, ma amarli comunque. È lì questa cosa. Ma anch'io li amo comunque i figli, però, e non l'ho partorito. Lo so, però io so che se avessi voluto avrei potuto non metterlo al mondo. È questa poi questo amore che va oltre. E poi c'è una invece sullo specifico un po' dei giorni, un po' della trasmissione. Aspetta, Paola, ferma un attimo. Chiamate 800 24 00 24. Io stamattina sono solo, non è che ospito nessuno. Scusa, sono no. Io e le persone con cui parlo, no, do diciamo lazzico alle tue colleghe perché si facciano sentire. No, scusa tanto, ti volevo di fare questa precisazione proprio sul tema delle bruone, le madonne, le sante, le puttane, le madonne. Una piccola riflessione sulla prostituzione. Due soggetti, un soggetto che compra e un soggetto che vende, il cliente e la prostituta. C'è anche un intermediario molto spesso. Sì, ma parliamo di quella vera, di quella del 90%, di quella da strada, quelle che scelgono, tutto un parlare di quelle che scelgono sono pochissime, non fanno testo. Io parlo di quelle prostituite, fatte prostituire a botte, le sfruttate, cioè le schiave, a piedi. Ecco, quella lì. Ci sono due soggetti. Uno che vende e uno che compra, un cliente e una prostituta, ma tu ti sai spiegare perché nel corso dei millenni è nata solo la parola figlio di puttana e non è nata la parola figlio di cliente? Perché il cliente sta dalla parte di coloro che coniano il lessico comune e la puttana, ahimè, non ha parola, svolge soltanto una funzione passiva. Tu stai parlando di qualcosa che mi fa molto riflettere. Guarda, in questi giorni di tutto si è parlato. Si è parlato della punta alta della prostituzione, quella che non necessariamente corrisponde a un mercimonio fisso, donne che si fanno mantenere, donne che accedono ai benefici di uomini potenti, che avvengono ovunque, avvengono nei giornali, nei telegiornali, nelle università. È un'lecita maniera di usare quell'attrattiva che fa che a te te lo mettano nel collo di pelliccia, qualcun altro centellina questa sorta di introduzione attraverso uno scambio di favori, ma nessuno ha parlato di quel terrificante fenomeno di schiavismo che vediamo nelle nostre pulitissime città, in qualsiasi provincia italiana, nelle grandi città italiane le strade la sera sono piene di schiave e queste schiave ci vanno ragazzi di 25 certo. anni con bambini di 2 anni sposati con le gnocche pure carine. Non, se tu parli con quelli che lavorano con le roulotte che vanno ad aiutare le ragazze a dare i preservativi, ti dicono che ci vanno giovani uomini di 30 anni che sono disposti a pagare il doppio pur di non usare il preservativo. Ok, andiamo a questo punto. Secondo te qual è il problema in questo? Dal punto di vista delle donne, fammi capire. Perché... dal punto di vista delle donne è che comunque c'è qualcosa che di millenario, di qualcosa che non va nell'evoluzione. E su quello non ci possiamo fare nulla, poco ci possiamo. L'evoluzione della specie, scusa tanto, ma perché vendere un pezzo di corpo dovrebbe essere più disdicevole che vendere l'anima o il cervello? Gente conosciamo che porta borse, che si vende l'anima, il cervello e anche il culo alle volte, però insomma non sono mai definiti come prostituti. Ma che differenza c'è tra una delle allora, ragazze Paola, che... Fermiamoci un attimo qua perché non puoi monopolizzare la trasmissione. Comunque hai dato il là e ho capito quello che è il sistema espressivo, la maniera di esprimersi di donne, consentimi il termine, normali, non condizionate, che a domanda rispondono semplicemente. Contrappongo il discutere di Paola, già stanno arrivando le sue colleghe, stanno chiamando all'800 24, con quello che è il manifesto della manifestazione di domenica, non perché voglia richiamarmi a una lettura politica di questa trasmissione, ma semplicemente per contrapporre i due linguaggi. Quest'Italia non è un paese per donne, solo che l'Italia è costituita per metà da donne, ragazze e bambine, il cui sguardo sul mondo e sulla vita, diverso da quello di uomini, ragazze e bambini, è il fondamento di un paese civile. Questo sguardo è una necessità a cui né donne né uomini possono più rinunciare. Solamente chi è fuori dalla storia può continuare a pensare che le donne corrispondano all'immaginario di vitelloni che non sono capaci né di fare l'amore, né di confrontarsi, né di lavorare a fianco e alla pari con le donne. Uomini, per favore, potete dire che non volete stare in un paese che sembra un brutto film degli anni 50? E donne, usciamo tutte insieme dalle nostre case e mostriamo nude le nostre facce. Non vorrei sembrare bieco, ma molte volte a me piacerebbe stare in un film degli anni 50. Non li trovo poi così brutti. Ho parlato l'altro giorno rievocando uno dei fantasmi della mia fanciullezza, Tura Satana, che è morta. E a me dispiace. Posso avere il diritto di vedermi identificato anche in un film degli anni 50. Angela Finocchiaro dice che le donne usciranno nude domenica mattina. Non voglio fare l'Alvaro Vitale della situazione, stare lì già con la bavetta alla bocca. Spero che escano nude, ma non spogliate i propri vestiti. Spogliate le proprie sovrastrutture, come spero che faccia Luisa. Luisa, buongiorno. Buongiorno, aspetta un attimo che spengo l'attrezzatura, altrimenti non sento niente. Quante attrezzature accese in questo momento? Ho l'attrezzatura che sto lavorando in campagna e sto facendo la potatura. Ma per potare bastano le forbici da poto, cos'altro ha? Come faccio ad andare sulle piante? Con la scala? Come siete indietro voi uomini? No, me lo spieghi, io guardi, ho una fanciullezza arcaica. Non mi dare del lei anche se sono anziana. E ieri ho fatto 50 anni. Cioè, beata te, sei una ragazzina, sono molto più vecchio. Allora spiegami, io sono stato contadino quando ancora tu forse eri un pochino più piccola. È un mondo bellissimo, ma non è un mondo. Ma come si sale sull'albero? Scusa, fammi capire. Con i carri da raccolta, con i carri da potatura, l'alzatura a pneumatica. Tu parli di alzatura pneumatica, già subito sembra che fai un riferimento occulto alle vicende di questi periodi. Andiamo al punto. No, sono qua, ho un carro che si può alzare E stai potando le viti? No, sto potando le pere. Ah, stai potando le pere. Sì, perché è un'azienda agricola che ho un po' tutta la frutta, dalla ciliegia di Vignoli, io sono nella zona vicino Vignola. E questo non è un lavoro solo da uomini, solo che noi donne quando facciamo questo lavoro veniamo classificate di serie B. Se un'azienda è condotta da una donna, non è molto ben vista nel nostro settore. Sì, infatti a miei tempi le donne vendemmiavano ma non potavano. La potatura era un mestiere sopraffino, quasi esoterico, che solo gli uomini sapevano potare. No. No, ma mi fa piacere. No. Quindi tu vivi a essere donna, hai vinto la tua battaglia nelle mansioni agresti, sai anche sì. Potare. Sì, ma il bello è quando riesco a portare il mio prodotto sul mercato, dove esclusivamente uomini portano il prodotto agricolo sul mercato, e riesco a imporre la mia nicchia di mercato. Questa è una cosa bellissima. Non siamo donne solamente perché abbiamo l'attributo femminile o perché riusciamo a procreare, no? Siamo donne, abbiamo un cervello. Ma perché ti senti in dovere di doverlo ribadire? Guarda che normalmente un uomo che viva una condizione serena nei confronti delle donne se ne accorge subito che la donna ha il cervello, ancora prima delle pere, se proprio vuoi saperlo, perché il primo messaggio ti arriva dal cervello. Non mi sembra quello che stiamo vivendo. Ma dice, bastate, non state parlando di uomini, sappiate anche voi distinguere gli uomini che avete accanto. Sì, però guarda, scusami, quello che stiamo vivendo adesso nel nostro paese, che cos'è? Cioè, vediamo le donne, la Ruby, tutte queste cose. Ruby non è esemplificativa di tutte le donne. Non vedi Ruby attorno a te con le forbici a potare le pere, secondo me. No. E allora che cosa te ne importa della Ruby? È una. Perché siamo rappresentate? Perché andiamo in piazza? Perché vanno in piazza domenica? Hai sentito cosa ho detto all'inizio della trasmissione? Cosa ho fatto leggere? Perché sì. Non l'avrei detto bene come scriverlo, onestamente. Sì. Ho detto, parla per te, lascia perdere, vai in piazza perché hai vinto la tua battaglia nel potare le pere, lavoro facciamo sempre gli uomini. Tutti i giorni, sono fortunata perché mi alzo, sono contenta di fare questo mestiere, sono contenta di essere donna, sono contenta di rappresentare una parte di donne che non riescono a emergere, perché nel mio lavoro veramente siamo Io nel mio piccolo, vedi, capisci cosa posso fare? Posso farti parlare alla trasmissioncina radio che in questo momento ho il privilegio di condurre, più di così non posso fare. Tu sei stato splendido. Ma adesso splendido, non... veramente. Grazie a te. È bello sentirsi che costruirsi questi teatrini in cui si è il protagonista assoluto, però non ci casco. Grazie Luisa. Caterina. Buongiorno. Buongiorno, io sono anch'io orgogliosa di essere donna perché mi sono separata da un marito ricco e sono diventata povera, ma sono felice. E non poteva portarle via un po' di soldi prima di separarsi? Sì, purtroppo non l'ho fatto, ma non me ne pento e quindi non, vivo la mia situazione serenamente. Però viveva meglio se gli portava via un po' di soldi. No, sono tranquilla con me stessa ed è la cosa più importante. Questa è la cosa che io ecco, e volevo solo dire una cosa. Io vedo queste donne che si presentano in televisione, lei UNESCO, sì, come se fossero, io gli farei la domanda, voi siete puttane? Beh, ma rispondono e sì. E vediamo che cosa rispondo. Ma no, dicono le puttane vanno per strada, sono zozze. Noi la diamo per tanti soldi una volta. Ma io preferisco poverine quelle per strada. Io non preferisco niente. Ma io sono penso... delle vere puttane sono. Ma sì, ma perché si riempie la parola di questa bocca? La bocca di questa parola, mi scusi il termine, ma sono delle puttane. E allora se sono puttane non hanno diritto di farlo. Scusi, possono fare, ma che non addolciscano la situazione dicendo ma che oggi c'è uno slittamento lessicale, oggi c'è una differenza, guardi, la differenza c'è. L'escort, lo sa perché l'escort in italiano si chiama chiamano così, no, si... in inglese non ce ne frega niente, no. In italiano si chiamano così. No, no, scusi, no, no, c'è una differenza, mi scusi. La puttana è stanziale, ha il suo marciapiede, ha il suo postribolo nascosto, ha il luogo dove esercita la prostituzione in maniera compulsiva, con dei clienti, vanno, entrano, pagano e se ne vanno. È molto più meccanica. L'escort frequenta ambienti molto più alti, si muove, viene contattata telefonicamente o via internet, è una donna di grande presenza, non necessariamente si limita alla pura consumazione, alla pura dazione prezzolata, ma fa passare una serata, un weekend, insomma addolcisce un periodo di tempo un pochino più lungo con un uomo, non attraverso un rapporto così meccanico, ma attraverso qualcosa un pochino più complesso. È una elaborazione del puttanaggio, ma potrei fare altri esempi ancora più diluiti nel tempo, che durano magari il tempo di un contratto a termine, il tempo di uno scatto di carriera. Ci sono tante maniere in cui una donna lecitamente può fare quello che vuole di se stessa. 800 24 00 24, a un istante, dopo l'informazione dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Negli anni 70 si gridava non più puttane, non più madonne, finalmente solo donne. Domenica 13 manifesterò per riproporre l'idea di una donna che ha diritto a vivere dignitosamente la sua vita lavorando, anche facendo la prostituta, facendo figli se li vuole, senza essere per questo licenziata, curando la sua persona, corpo e mente, senza essere per questo sospettata di trarne un profitto illecito. A me non interessa se le donne la danno o meno, ognuno fa quel che gli pare e saprà perché lo fa. Rimango senza giudizio per loro. Magari mi rattrista un po' che si venda però il proprio corpo e magari non la propria intelligenza, alla quale personalmente do un valore un po' più alto. Ciao Gianluca, non penso che sarà una copia dell'8 marzo, ma la vigilia di San Valentino. E io per lunedì mattina ho già preparato un cioccolatino a forma di cuore che metterò sul comodino di mio marito. Oh, che bello, ogni donna faccia quello che gli pare, quello che le dà felicità, quello che la fa sentire leggera. Io scrissi su Facebook ieri sera, invitando le ascoltatrici a lasciarmi i messaggi, a questi sono messaggi di ascoltatrici di Melog, lasciati questa notte. Li volete giudicare, non li volete giudicare, quanto vi ci riconoscete? Beh, dissi che questa mattina avrei fatto parlare soltanto donne leggere, e quindi do il microfono e do la possibilità di parola a donne che sentano donne leggere, purché si sentano donne leggere, anche se pesano 80 kg. La leggerezza femminile è una condizione essenziale, spirituale. Lo dice una persona che negli ultimi mesi ha sollevato centinaia di donne, probabilmente. Io ho fatto il conto, penso aver superato veramente il centinaio e passa di donne che ho sollevato. Me le sono prese tutte sulle spalle, nelle piazze italiane, inveendo e richiamando a sollevazione di piazza, prendendomi delle donne sulle spalle. L'ho fatto anche a Oristano una settimana fa, ho alzato una meravigliosa signora di 85 kg. Ho avuto qualche dolorino per qualche giorno, ma quel peso di donna che mi prendevo sulle spalle, l'ho vista leggera per un attimo, per me è stata la più grande soddisfazione che potessi mai aver avuto da una donna. Simona, buongiorno. Buongiorno. Allora, io scenderò in piazza domenica, ma scenderò in piazza soprattutto perché da mamma di bambino maschio voglio dare un esempio positivo a mio figlio, nel senso che io per mestiere me ne prendo tante sulle spalle di donne. Cosa fai? E faccio l'avvocato, ma faccio prevalentemente separazione e divorzio. Ah, cioè matrimonialista, diciamo. Esatto. Io preferisco dire divorzista, in realtà. Divorzista, va bene. E no, in realtà devo dire che è una grande soddisfazione vederle entrare a studio distrutte e piangenti e invece vederle uscire col sorriso, che ti dicono grazie Simona, perché aboliscono subito il termine avvocato con me. Grazie Simona, mi hai dato tanta forza, tanto coraggio, adesso so che ce la posso fare. Guarda, io volevo solo una piccolissima precisazione. Sì. A me non è che io faccio una trasmissione e dire non scendete in piazza, trovo altrettanto ridicolo quanto quelle che dichiareranno scenderemo a fare questo a nome delle donne. Certo. Le donne che si dissociano, oggi in un giornale c'è una foto di tutte donne, diciamo noi non scendiamo in piazza, però tanto ti becchi quel barlume, quel baluginio di fama strappata dal fatto che fai la donna che si prende il diritto di dire alle altre donne quello che non devono fare. Non scendete, certo, non fate quello che volete. Questo è sbagliato. Se una bella giornata, sarà divertente andare a vedere le donne in piazza. Infatti noi saremo un gruppo di amiche che andrà lì più che altro per passeggiare, divertirsi anche. In maniera, guardi, le dico la verità, le donne secondo me fanno un grande errore in Italia, in generale, e si prendono troppo sul serio certe volte. Sì, quello è un grande problema. Cioè, dovremmo essere un po' più littizzetto tutte quante, dico io. Beh, il tizzetto ha un po' segato le gonadi, onestamente, è diventato una macchietta. Un po' meno litizzetto, se potete, diciamo. Un po' più di autoironia, no? Perché tanti errori. A me piace il termine leggerezza, avvocato Simona. Sì, donna leggera. Sì. E che acquista il diritto di essere leggera, può essere leggera, certo, anche all'estrema conseguenza della libera d'azione personale, ma sì, anche leggera, sì, nel senso di non sentirsi appesantita da quello che deve essere. Grazie. Certo. Maria Antonietta. Eccomi, buongiorno. Io volevo dire questo, all'esame di maturità tanti anni fa io ho sentito un'espressione della compagna di Sartre, Simone, però poi non so il De Beauvoir. Ecco, la quale diceva che il peggiore nemico della donna è la donna stessa. Quello che sta accadendo oggi con questa manifestazione di piazza. Aspetti, lei sta rischiando la motosega, lo sa. Lei parla di se stessa, se parla a nome delle altre donne già è fuori dalla trasmissione. No, io sto parlando di una donna che è stata, mi sembra di ricordare, anche una delle madri del femminismo. Ok, vabbè, questa è una citazione storica, gliela faccio passare. Ecco, parli di sé, non dica alle altre donne cosa devono fare. No, dico che a mio parere personale, di una mamma, di una donna di 46 anni, mamma di 4 figlie, consulente finanziaria, quindi lavoratrice e tutto, secondo me, secondo il mio parere, andare in piazza a difendere in questo momento la donna, così come altre donne stanno facendo, è come fare la caccia alle streghe e dividere la donna di serie A e la donna di serie B. Ma ce l'ho detto all'inizio questo, perché ripeto quello che è stato già detto? No, perché per me questa è una cosa. Noi abbiamo già sorriso questa banalissima suddivisione delle donne cozze, le donne belle, le donne impegnate, le donne che impugnano il cervello, le donne ce l'hanno con le donne che in realtà fanno le stupide. Ogni donna faccia quello che vuole, purché ci faccia sorridere e ci dia il conforto di sentirci ogni tanto di aver qualcuno con cui confrontarci che non è proprio brutto, schifoso, peloso, ottuso come siamo noi maschi. Anita. Buongiorno. Io sono un'insegnante, insegno nella scuola elementare. Perché ha questo tono dimesso? Ma è perché sono preoccupata. No, sia leggera, che preoccupazione. Sì. Per 5 secondi può essere leggera. Abbandoni le preoccupazioni, che problema c'è? Magari anche l'emozione di parlare in pubblico. Ah, emozionata? Sì, abbandoni anche l'emozione. Dunque, io parto dal fatto, dalla premessa che il compito di ognuno, uomini e donne, è quello di migliorare, fare qualcosa per il progresso, per la vita futura. Ma anche qualcosa per sentirsi bene, soprattutto. È certo. Io penso si contribuisce al benessere comune quando uno sta bene con se stesso. Indubbiamente, ma la donna sente soprattutto il ruolo educativo. Sì, ma la donna Anita cosa fa per essere contenta? Io ho allevato 2 figli da. Vabbè, quello è un dovere, sì, da soddisfazione, no, non è che è stato un piacere ed sì, è stata una soddisfazione vederli crescere con i valori sani. Come insegnante. Ma lei si è votata a questo ruolo di donna tutrice dei figli, ma va bene anche questo, mica la critica. Ovviamente. E ora mi dedico anche ai figli degli altri. Ma quindi a sé non si è mai dedicata? No, è un ruolo che io ammiro, non sarei capace io a pensare solo a questo. Io ogni tanto devo scappare via e dire, figli miei, se il papà non se ne va un attimo a bersi un margarita e starsene un po' sereno, quando torna c'ho un muso lungo così e poi è peggio per voi. Io così ogni tanto ragiono. Sì, indubbiamente. E lei cosa fa? Ho sacrificato me stessa per gli altri, ma qualche volta può essere una gratificazione e una gioia anche questa. Ma lei crede nella vita eterna? Ma forse sì. No, perché almeno avrebbe uno scopo questo sacrificarsi. Io la trasmetto agli altri, la mia vita viene trasmessa. No, perché la vita è una, ammesso che possa esserci anche un atto di fede per una vita eterna. Anch'io sono a modo mio malissimo. Poi farò in tempo, spero, di confessarmi nell'ultimo istante. Al momento non ci voglio nemmeno pensare. Però se non c'è una vita eterna, scusi, tutto questo sacrificio ci penso un attimo, poi faccia come vuole. Antonella. Pronto? Eccolo. Sì, buongiorno. Allora, io volevo dire una cosa, mi sento abbastanza al di fuori di questo contesto come donna, soprattutto quello delle manifestazioni. Ma infatti lei parli di sé, io sto sperando questa mattina che uno dimentichi quello che fanno le altre donne. Mi piacerebbe che le donne mi facciano capire il mestiere di essere donna, così l'ho detto. La sua collega poco fa ha detto che il suo mestiere di essere donna è essere sacrificarsi per gli altri. Pieno rispetto, c'è chi mette il cilicio. Il mio mestiere di essere donna è essere un individuo libero e non strumentalizzato. Cioè, oggi mi sembra che queste donne Eridaglia parla delle altre donne, parli di sé, se ne freghi delle altre donne. Lei già ha ammazzato il suo essere donna, ci individuo. No, lei è una donna, non è un individuo. Io sono un uomo, non sono un individuo. Prima uomo, poi individuo. Scusi. Ma lei mi deve dire perché oggi non scendono in piazza gli uomini che si vendono alle donne. E che ne so io? Non so. Perché non c'è un'organizzazione perché della mascolinità? Adesso me l'hanno sbattuta sotto il viso perché tutti i giorni vedo prostitute minorenni che si vendono e nessuno mi ha mai chiesto di indignarmi. Oggi a me donna chiedono di indignarmi, ma io non mi indigno a comando, mi fanno un po'... Ha ragione. Cioè, mi fa un po' rabbia vedere tante donne che si indignano a comando. E siccome oggi avviene tutto a comando, la nostra moralità è a comando, quella a comando... Ma se uno vuol farsi dare i comandi, mi scusi, se uno vuol farsi dare i comandi... Se lei un attimo fa della sua ragione di vita la leggerezza, guardi con leggerezza le donne che si indignano a comando, è un mestiere anche quello, sa? Mica lo fanno perché soltanto lo fanno, perché poi hanno degli profondi addentellati politici, perché poi nel loro luogo di lavoro hanno delle leadership, perché poi ne hanno anche dei vantaggi concreti. Guardi che anche l'indignazione a comando è un mestiere, quindi stia leggera, stia tranquilla, non se la prenda. Mi racconti cosa significa essere donna, come lo chiedo di fare agli altri, ma tra un istante dopo le informazioni del traffico. Pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé? Pourquoi se séparer? Melog 2.0. Sono fieva delle mie rughe, eccoli qui, una per una. Sono un campo avanti. Io non ho paura di picchiare, non ho paura di morire. Adoro la vita e trovo che l'amore è meraviglioso. Tutte le donne sono giovani, tutte le donne sono belle, tutte le donne hanno 20 anni. Certo che nella città delle donne era già riassunto tutto quello che oggi viene proclamato come una novità assoluta, come un segno dei tempi, come una caratteristica propria di questa fattispecie in questo momento particolare. Giusto, le donne scendono in piazza perché accade questo, ma già accadeva, già era storicizzato al tempo della città delle donne. Sentite, tutte le donne hanno 20 anni, non è vero, una menzogna, non è vero. Con una donna 40 anni ha 40 anni e deve cercare la chiave ineffabile del fantastico dei suoi 40 anni. Tutte le donne sono belle, non è vero, anche brutte, come anche gli uomini sono brutti. E tutte le donne sono giovani. No, quando invecchiano vengono le rughe anche alle donne, non è che sono da buttare via. Occorre un recupero di ciò che si è perduto, che è qualcosa di fantastico e nessuno vorrebbe perdere. Bisogna essere coerenti, non bisogna nascondersi dietro i luoghi comuni. Mi sto rendendo conto che nel giorno palindromo stiamo parlando di una ricorrenza palindroma, di un'annunciata manifestazione palindroma. Da qualunque parte la prendi, comunque mostra una sua ambiguità. Maria. Sì? Buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Niente, io volevo solamente dirti, perché hai detto che uno deve parlare di te. Ah, sei la gruppe messicana? Certo. Ah, non mi staccherò mai da te. Assolutamente no, sono la tua condanna, il tuo peggiore incubo. Niente, no, ti volevo... fosse tutti così. Ti volevo dire semplicemente che se si parla di leggerezza, io sono abbastanza, mi considero abbastanza leggera. Una donna anche, leggera? Anche sì, certo, anche un po' giudicata come tale. Tante volte, tu lo sai bene che facevo la giornalista, no? Io ero la giornalista che andavo in giro con la minigona a fare le interviste, le conferenze stampa, e tutti pensavano che forse era quello la marcia in più che mi dava sempre o l'esclusiva o, che so, un'intervista o qualcosa in più. Ma non è quello il punto, secondo me. Non era che io mi facevo vedere con la minigona, però riconosco che anche da donna leggera, quella era una cosa che io utilizzavo come un mezzo per attirare, per avere successo. Ma da che mondo l'abbiamo sempre saputo? Guarda, nessuno di noi ha fatto mai finta di non accorgersene. Ma la cosa è che nessuna donna, e soprattutto quelle che si reputano così femministe, ok, accetta questa cosa. Questa cosa è verissima, ma nessuno l'accetta, c'è un po' di ipocrisia. Ma no, ma guarda, le mie normalissime amiche lo dicono ogni giorno, lo ammettono ogni giorno. Sono cose che se tu sposti il dibattito su un piano politico, adesso è un piano ipocrita, perché la politica è ipocrisia. La politica è una cosmese del reale in nome di un'ideologia. Se ci spogliamo dell'ideologia e cerchiamo di essere leggeri, è vero, è chiaro, ma quante colleghe hanno fatto carriera, fanno strada, oggi sono stimatissime telegiornaliste, grandi firme dei grandi giornali italiani, e si sa che nella loro storia a un certo punto hanno avuto storie d'amore con uomini potenti. Ma non dico che quello sia un prostituirsi, sia una strategica elaborazione e amministrazione delle proprie capacità relazionali. Non è detto che l'hanno data per diventare la prima firma del grande giornale, l'hanno data perché in quel momento hanno trovato un uomo di loro innamorato che aveva anche il potere di farle progredire. Ma mica dico che questo mi scandalizzi. Sarà un problema magari per le altre donne, per quelle che sono più avare della loro d'azione o impossibilitate dalla natura di stare sullo stesso tipo di mercato. Patrizia. Buongiorno, ciao. Eccomi. Ciao. Sì. Io sento le cose di questi giorni e sono io scandalizzata, ma scandalizzata perché le donne vanno in piazza. Ora, negli anni 70 io ero una ragazzina. Ma perché non parla? Parla di te, perché sennò devo segare. Mi scandalizzavo, meglio, non capivo quel che dicevano le femministe in piazza e che recitavano frasi che tu sai bene che ora non ripeto per decenza. Ora, le stesse invecchiate di 30 anni, forse quello è il punto, vanno in piazza per dire che invece non è nostra, non ce la possiamo gestire come si deve, cioè che invece dobbiamo tornare tra le mura, dobbiamo essere castigate. O forse, ma perché ti indigni di questo? Scusami, cerca di guardare con leggerezza e con un senso di compassione. Poverine, devono dare una giustificazione al loro essere fuori dalla storia. Però è triste, io ho una figlia di 11 anni, qualcosa le devo pure spiegare. Non gli passa la tristezza, perché sennò diventa triste tutta la vita anche lei. Non si capisce perché, cioè. Ma no, si capisce benissimo. Ogni persona deve dare una giustificazione al suo esistere. Chi tutta la vita si è mantenuta radicalmente stretto a modello, lo deve riproporre appena c'è l'occasione, lo spiraglio, il momento in cui politicamente, per dare una spallata al governo, cosa lecitissima, o per giustamente mostrare l'indignazione su vicende che ormai sono note, si ritira fuori un racconto della realtà che ormai era un po' usurato, ma bisogna guardarle con leggerezza anche loro. Alba. Buongiorno, io parlo esclusivamente di me stessa. Brava. Pensando peraltro esattamente quello che ha detto la signora precedente del problema in generale. Io ho 47 anni e fino a poco tempo fa ritenevo di aver passato una vita pesantissima, oggi mi ritengo invece di essere una persona leggerissima. Che è successo? Che è accaduto? Perché di fatto sono stata nei miei 47 anni forse 3 o 4 donne diverse, e anche questa è una bella cosa, la libertà della leggerezza di incarnare delle donne diverse. La sovrascrittura di se stesse, quello che io predico da tanti anni. Oh, esattamente. Io sono stata l'adolescente anoressica tipica prima della classe secchiona. Poi? Successivamente sono stata lavoratrice e madre integerrima. Poi? Poi ho avuto l'evento nella mia vita di avere, va bene, svariati figli, di cui anche un figlio disabile. A quel punto dovevo scegliere se vivere o morire, e ho deciso di vivere. Conosco bene questo tipo di scelta. Poi? Ecco, dopodiché sono stata una moglie non troppo fedele. Brava, perché comunque ecco. Dovevo continuare, volevo vivere, volevo sperimentare altre cose. Se lei è riuscita a farlo senza che nessuno se ne accorga e nessuno ne avesse da soffrire, ha fatto benissimo. Esatto. Si è fatta dei bei regali, non vedo il problema. Esattamente, mantenendo gli impegni, rispettando il basso profilo, questo è quanto. Va bene, ha trovato una formula di leggerezza, mi sembra invidiabile. Modestamente, da tanto tempo cerco di far capire che la propria leggerezza è la leggerezza del genere umano. Piuttosto che scendere in piazza, si cerchi di trovare degli spiragli di felicità quotidiana, senza naturalmente creare degli sprofondamenti nel dolore di altre persone. Alba. No, Alba, abbiamo già parlato. Elisabetta. Buongiorno. Eccola. Io volevo dare la mia opinione personale proprio. 21 anni hai? Sei giovane? Sì, sì. la mia piccola esperienza alla fine, cioè, secondo me proprio non bisogna guardare al sesso maschio o femmina, bisogna guardare alla personalità. Se io mi sento è un po' il luogo comune, però scusa, sei giovane. No, però è vero, se io mi sento una persona in gamba, cioè nella mia esperienza anche universitaria. Sì, ma io lo sento a naso subito, se donna o no, scusami, perché vuoi negarti certo, questa però, chance? Senti a naso anche se io sono una persona buona, una persona cattiva, una persona che si impegna oppure no. Cioè, secondo me bisogna andare al di là del sesso. Posso no? Sì, ma invece secondo me no, scusa, ma poi ognuno ha il suo punto di vista. Già certo, significa certo. Togliersi qualcosa e allinearsi. No, tu sei una donna, è giusto. No. Che vuoi andare al di là di essere una donna? Fammi capire. Non vuoi essere apprezzata in quanto donna? Poi aggiungici tutti gli aggettivi che vuoi, ma metti prima di tutto il fatto che sei una donna. Io metto invece davanti il fatto di avere una certa personalità. Poi dopo, in base alla personalità... Ma non è staccata dal fatto che tu sia donna. Sì, ma se tu non fossi una donna, sarebbe tutto un altro tipo di cosa, capisci? Mi piace avere come ultima ascoltatrice una ragazza giovane e mi piace dare quello che è il mio modestissimo contributo. Non dimenticate che il fatto di essere uomini e donne è fondamentale, perché quella è la chiave attraverso cui leggete il mondo e quello è il filtro attraverso cui il mondo guarda attraverso voi stessi. 800 24 00 24, ma da lunedì, perché oggi la puntata è finita. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.